Surf, Surfing Records anno 1. Rhymes, Parlate, bla bla bla bla bla bla. Però ci avete rotto il cazzo, ne ho sentite. Parla, e poi cosa combinate? Un cazzo, invece noi andiamo sempre avanti. Nuovi progetti, nuove situazioni, fanculo. Katana al cielo, piedi per terra. Scaldo il posto, sono effetto serra. Spari frecciatine al buio, poison dagger. Sopra la tua tipa sbocco Jägermeister. Ti esperti dopo Drunken Master. Il tuo disco è un fantasma, io Ghostbuster. La tua label fallita come Blockbuster. Siete ovunque, fate schifo come sale slot. Sparare minchiate è il vostro sport. Tutti affari real, yes yes bro. Ma siete quattro troie come l'essere bro. Scrivo tutto spaccato a notte fonda. Se no di giorno tua mamma chi è che se la monta? Rime su rime, la mia armata. Live dopo live, la mia scalata. Tu da 0 a 100 con un'inculata. Scrivo questo pezzo come fosse l'ultimo. Bevo questo drink come fosse l'ultimo. Ballano come se non ci fosse un domani. Allora criticami. Scrivo questo pezzo come fosse l'ultimo. Bevo questo drink come fosse l'ultimo. Ballano come se non ci fosse un domani. Allora criticami. Critica sempre ogni testo è sovverso. Così ti rendi conto di quanto io sia diverso. Non c'è scusa da potermi accalabbiare. In questa merda non mi foto, ci sono pari. Bam, senti questo basso suono. Il tramonto di una vita che non perdona mai. Io mi godo il lusso di fare ciò che mi piace. Tutti accontenti di ciò che non se ne faccio. Ho la faccia sfatta, qui scatta la rima. Tu non hai idea di com'ero prima. In prima fila mi son fatto sempre condannare. E nelle metriche mi aggrappo senza affondare. Traghetto emozioni come questo lungomare. In questa terra ho il coraggio di restare. Si va sconfortati da questa realtà. Io resto in piedi vestito di dignità. Ascolta questa track e capisci bene il testo. Una vita priva di valore senza arresto. Critico me stesso perché spesso mi perdo. Ma non perdo mai il mio traguardo. Guardo indietro per apprezzare ciò che ho davanti. Non dimenticherò mai i mille pianti. Cancello questa rima come con le altre. Ti canto questa strofa, non recito una parte. Scrivo questo pezzo come fosse l'ultimo. Bevo questo drink come fosse l'ultimo. Ballano come se non ci fosse un domani. Allora criticami. Scrivo questo pezzo come fosse l'ultimo. Bevo questo drink come fosse l'ultimo. Ballano come se non ci fosse un domani. Allora criticami.